ascoltatori ed ascoltatrici, abbonati ed abbonate, bentornate a Pensatech, l'appuntamento del venerdì sulle frequenze di Radio Città del Capo, Radio Città del Capo di Bologna. Evidentemente la lingua si incarta perché c'è la paura che qui alle 11 finisca il mondo per la profezia Maya. Ma noi staccanovisti del microfono, nonostante questa spada di Damocle che ci pende sulla testa, siamo qui a condurre e come sempre abbiamo la nostra sigla a 8 bit. E in questa giornata così di attesa abbiamo qui al mio fianco anche Elisabetta Tola. Buongiorno Elisabetta. Buongiorno Marco, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. E sì, siamo un po' in attesa in realtà, devo dire. Io sono piuttosto tranquilla, non so tu. Io sono piuttosto tranquillo anche perché hanno detto che è alle 11 ma non hanno specificato di quale fuso orario. Quindi secondo me c'è un po' di confusione anche da parte dei Maya. Insomma, poveri Maya, tirati per la giacchetta a destra e a sinistra, in questi giorni non si parla d'altro sui vari social media, in onda, in TV e sui giornali. Noi invece parliamo di qualcosa di cui sappiamo ormai con certezza, per fortuna, che su cui potremo fare conto, cioè l'agenda digitale, Marco, e finalmente ne abbiamo una anche noi. Abbiamo finalmente anche noi un'agenda digitale, un percorso che è cominciato a gennaio di quest'anno, che ha visto la partecipazione di tantissime persone, sia online che anche fisicamente. Ne abbiamo parlato diverse volte, ma vorremmo anche parlarne con voi, per cui Elisabetta ricordiamo subito tutti i nostri contatti. Tutti i nostri contatti, allora l'SMS 348-7649-289, la mail che è diretta @radiocittadelcapo.it, Twitter, scriveteci su Twitter, stiamo cercando di aumentare il parco dei follower di Pensatech ed è @Pensatech col CH. Poi naturalmente questa puntata, come tutte le precedenti, sarà pubblicata anche sul sito di Radio Città del Capo e c'è la pagina Facebook di Radio Città del Capo dove potete contattarci anche nei prossimi giorni. Quindi insomma fateci compagnia e quello che vogliamo provare a vedere oggi è cos'è questa agenda digitale, come andrà a cambiare le nostre vite, non solo la vita privata Marco, ma soprattutto quella lavorativa, perché è lì dove le novità veramente forse saranno concrete, saranno tangibili. E poi naturalmente vogliamo andare a capire se chi ci ascolta, se i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici puntavano su questa agenda digitale anche per mettere in campo delle novità. Diciamo che è stata approvata in corner, lo vedremo tra poco con i nostri ospiti, ce l'abbiamo fatta per un pelo perché rischiavamo meramente che rimanesse bloccata questa legge proprio a causa della conclusione un po' anticipata di questa legislatura. Sì, anticipata anche se si è guadagnato 10 giorni rispetto alla data prevista inizialmente, ma questa è una polemica sterile invece. E però è stata fondamentale ai fini dell'approvazione di questa legge. Diciamo, questa legge è passata proprio a fine della settimana scorsa e veramente, veramente si è temuto molto che rimanesse lì e si è temuto perché questo avrebbe significato uno stop di mesi e forse proprio anche una ridefinizione con uno svilimento di molti dei contenuti innovativi di questa legge. Quindi questo lo vedremo tra poco con i nostri ospiti. Prima però, Marco. Prima però, visto che abbiamo detto che vogliamo capire intanto che cos'è l'agenda digitale, come tutte le settimane abbiamo il nostro Glossatech, il vocabolario dell'innovazione della tecnologia digitale, curato come sempre da Lisa Lazzarato, e quindi oggi ci sentiamo a come agenda digitale. A come agenda digitale. Dal sito agendadigitale.gov.it. L'agenda digitale è la strategia europea per sviluppare un'economia digitale fiorente entro il 2020. L'agenda delinea politiche e azioni che mirano a sfruttare la rivoluzione digitale a beneficio di tutti. L'agenda digitale europea è nata nel 2010. Tra le sue priorità per il 2013-2014 vi sono: potenziare la banda larga, promuovere l'occupazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e migliorare la sicurezza informatica. Anche l'Italia ha adottato un'agenda digitale. Il 13 dicembre 2012 è stata approvata la legge che contiene le misure per l'applicazione concreta dell'agenda digitale. Nella legge vi sono misure a sostegno delle start-up o sulla digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e l'obbligo da parte loro di rendere disponibili i propri dati in formato aperto. Ma le novità toccheranno i cittadini anche più da vicino, ad esempio con l'obbligo di avere una casella di posta elettronica certificata o la garanzia di poter sempre pagare per via elettronica tasse e multe. Queste misure non entrano in vigore subito, ma richiederanno dei provvedimenti attuativi che dovrebbero essere presi entro il 2013. Ed ecco qui dunque la definizione, grazie alla voce di Lisa Lazzarato, di Agenda Digitale, il nostro Glossatech, che trovate come sempre raccolto nelle pagine web del sito di Radio Città del Capo. E noi diamo il buongiorno a Lorenzo Benussi, che è economista dell'innovazione al Consorzio Topix di Torino, ma è anche uno dei consulenti per le politiche digitali del ministro Francesco Profumo, il ministro che è uno di quelli che ha voluto fortemente una innovazione digitale, per esempio nel suo settore, quello della scuola e della ricerca. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno a tutti. Allora, dicevamo in apertura, e questo subito prima di chiamarti, che siamo contenti perché diciamo questo provvedimento è stato approvato, ma l'abbiamo vista brutta. Beh sì, è stata abbastanza rocambolesca l'approvazione del decreto, perché proprio nella sede in Senato, quando stavano votando sostanzialmente l'approvazione della norma, c'è stata la crisi di governo, per cui per alcuni giorni abbiamo temuto che a causa delle logiche, diciamo, della politica, questo provvedimento, che per la maggior parte è un provvedimento tecnico sul digitale, non venisse approvato. Ecco, è un provvedimento tecnico sul digitale che però non è un freddo documento, e adesso con Lorenzo cerchiamo di raccontare veramente cosa cambia un po' nelle nostre vite, perché le applicazioni sono tante le novità. Sì, innanzitutto è un provvedimento trasversale, come sono trasversali le tecnologie digitali. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che proporre la digitalizzazione dell'amministrazione italiana o aiutare le imprese a adottare tecnologie digitali rinnova, crea innovazione nei servizi verso i cittadini, nel modo in cui lavorano le imprese a 360 gradi, per cui ha un effetto sistematico, diciamo, su tutto quello che riguarda la vita anche dei cittadini. Basti pensare alle possibilità di comunicare con l'amministrazione con mail, di pagare appunto le varie tipologie di tasse attraverso internet, però contiene per cui qualcosa che è molto legato alla vita dei cittadini, ma anche alcuni articoli molto di visione su quello che dovrebbe essere il futuro del nostro paese, soprattutto nei confronti del digitale, per cui le città intelligenti, le comunità intelligenti, piuttosto che gli open data, piuttosto che le start-up. Ecco, di startup abbiamo parlato proprio in una delle prime puntate qui a Pensatech, l'abbiamo fatto con Luca De Biase, che era stato uno dei membri di questa commissione che aveva stilato un po' anche delle indicazioni per innovare, no? Il concetto di startup nel nostro paese, dare anche delle indicazioni pratiche. E però appunto il provvedimento è trasversale, Lorenzo, questo significa che sono veramente tanti gli strumenti che potrebbero finalmente portarci un po' a livello di altri paesi. Diciamolo sinceramente, in questo momento la politica digitale in Italia fino ad ora è stata abbastanza arretrata. Ma secondo me questo è un parere personale, però drammaticamente arretrata, nel senso che negli ultimi 15-20 anni questo paese semplicemente non ha considerato le politiche sul digitale. Poi a onor del vero dobbiamo dire che in alcuni particolari settori, ad esempio nell'amministrazione, anche i governi precedenti avevano dato un impulso al digitale. Noi abbiamo un codice dell'amministrazione digitale che comunque è un'ottima norma. Però in generale non si è mai avuto una politica organica, cioè credo che la cosa più importante di questa agenda sia che per la prima volta sostanzialmente nella storia un primo ministro e tre o quattro ministri molto importanti si sono seduti intorno al tavolo e hanno detto: ok, questo paese ha bisogno effettivamente di una politica organica sul digitale. E quindi queste, diciamo, sono le novità da un punto di vista dell'approccio, della visione politica. Andando invece nel merito di quello che è l'agenda digitale, so che tu sei stato uno dei tanti, delle persone insomma che ha lavorato, a volte ce l'hanno raccontato via Twitter, via social media, eccetera, anche veramente nelle ore notturne per metterci dentro una serie di contenuti a questo provvedimento. Facciamo qualche esempio concreto. Per esempio, cosa significa e cosa cambierà o cosa potrebbe cambiare nell'ambito della scuola proprio? Ecco, abbiamo toccato un argomento abbastanza delicato, nel certo. Senso che l'approccio innanzitutto quando si parla di scuola bisogna, secondo me, premettere che la scuola ovviamente ha dei grossi deficit proprio di investimento in questo paese, per cui sappiamo tutti il problema dell'edilizia scolastica, certo. Sappiamo il problema dei precari, per cui quando si parla di scuola mancano sempre centinaia di milioni di euro in questo paese, non si riesce a capire come mai su una cosa così importante. Detto questo, è evidente che non si può pensare soltanto a questi problemi e non pensare a progettare un futuro anche digitale per le scuole italiane. Per cui quello che soprattutto si è cercato di fare, e io ho presenziato vari tavoli, è stato quello di puntare molto su i libri, anche la parte diciamo digitale dei libri scolastici. Che cosa vuol dire? Cercare di spingere verso l'adozione di contenuti multimediali, di modalità anche didattiche che si fondano sull'utilizzo di internet, sull'utilizzo, ma anche banalmente, di video interattivi. Pensiamo a quello che può avvenire nell'insegnamento delle scienze, no? Però purtroppo questo paese non è particolarmente ricettivo al cambiamento, questa norma è stata di molto osteggiata e ridotta soprattutto dall'opposizione di editori che in modo abbastanza conservatore, oppure comunque insomma, il tema è complesso, si sono sostanzialmente opposti, per cui c'è una grossa diciamo proiezione verso l'utilizzo sistematico del digitale nel mondo della scuola, che però non ha trovato una piena diciamo una piena cittadinanza, esatto, nella norma. Invece per quanto riguarda il settore diciamo dell'innovazione, tu citavi prima le start-up, quindi il settore del lavoro in generale, soprattutto del lavoro di chi oggi ha delle idee nuove, qui ci sono buone aperture? Beh, innanzitutto cioè, per la prima volta si parla di start-up in una legge dello Stato. Ci sono vari casi nell'agenda digitale, anche di dati aperti, anche le comunità intelligenti, però lì si parla per la prima volta di start-up e si cerca di creare un contesto normativo che sia favorevole alla loro nascita, alla loro crescita, e nella loro crescita e nascita ovviamente riguarda i temi anche del lavoro, per cui che sia sostanzialmente più facile per chi fa una start-up crearla, assumere delle persone e poi eventualmente anche ripagarle con pezzi della società o cose di questo genere, e soprattutto si cerca di aiutare la chiusura delle start-up, perché uno dei temi centrali quando si parla di start-up è il fallimento. È normale, fisiologico, che chiunque fondi una start-up fallisca, il 90% di quelli che fondano una start-up falliscono, e va bene così. In California questo è normale, è un ciclo, uno ne fonda uno, fallisce, impara, ne fonda un'altra, fallisce, impara ancora, la terza gli va bene, e allora lì poi si ripaga diciamo dei fallimenti precedenti. Purtroppo in Italia il fallimento è sempre associato o alla negligenza o addirittura alla delinquenza. Ecco, una delle cose importanti che bisogna cambiare in questo paese è la cultura del fallimento, soprattutto legate alle imprese, cioè fallire non vuol dire essere stati, in questo settore non vuol dire essere stati negligenti o aver messo della malizia, essersi intascati dei soldi, ma è assolutamente fisiologico. Insomma, quindi, fare innovazione in un settore così, così anche, come dire, dove non ci sono già delle strade pretracciate, è un processo per trial and error, quindi provare e poi anche mettere a punto, proprio una sorta di ricerca scientifica, Lorenzo. Assolutamente sì, che poi è quello che avviene normalmente nei posti dove si fa tanta innovazione, appunto in Silicon Valley, ma anche appunto in Israele, insomma in quelli che sono gli hub, diciamo i nodi dell'innovazione, le imprese nascono e muoiono a una grande velocità. È importante che noi aiutiamo questo processo e non lo ostacoliamo. Ecco, infatti la mia ultima domanda è su questo, non ostacoliamo il processo, cosa succede adesso? Perché appunto abbiamo la legge, però come si passa alla fase operativa? Allora, questo è uno, se vogliamo, delle caratteristiche, se vogliamo anche dei limiti di questa norma, ma è una scelta che io condivido totalmente, cioè la norma indica dei principi generali. Ad ognuno di questi principi viene associato un regolamento attuativo o una norma secondaria. Perché? Perché quando si vanno a regolamentare le tecnologie è importante che le norme siano, si rinnovino e siano anche abbastanza puntuali. Per cui l'agenda digitale si porta dietro una costellazione di decreti che devono essere fatti dai vari ministeri competenti. È chiaro che a questo punto la palla passa ai governi successivi, perché questo governo sta finendo e questi decreti attuativi, che sono fondamentali e che io credo che sono quello che fa la differenza rispetto a stati come l'Inghilterra o gli Stati Uniti, dove questi decreti poi sono molto operativi, per cui ad esempio le amministrazioni dicono tu devi fare così, così e così, certo, e non creano incertezza. Ecco, questi decreti sono ormai un lascito che daremo al prossimo governo. Però, io spero vivamente abbia la coscienza, la consapevolezza e anche la competenza per poter portare avanti questo tema fondamentale per il paese, perché è inutile prendersi in giro, uno può fare le norme, però se non c'è una visione politica, e io comunque lo posso confermare in questo anno di vita, in questo governo tecnico, il governo tecnico arriva fino a un certo punto ovviamente, poi serve la politica, serve la discussione con i cittadini e serve la consapevolezza di costruire un futuro. Se questa non c'è, ripartiremo dall'inizio e saremo sempre indietro in Europa. Se invece, come spero, il prossimo governo, qualunque esso sia, prenda questa eredità, ne faccia un programma politico e ci costruisca una visione di futuro e di progresso, beh, allora forse riusciremo a essere un paese più normale. E questo naturalmente ce lo auguriamo in tanti. Grazie a Lorenzo Benussi, grazie per essere stato con noi e vedremo, terremo alta la guardia qui a Pensatec anche nelle prossime settimane e mesi, soprattutto appunto in quelle in cui si instaurerà il nuovo governo, andremo a vedere come le cose andranno. Grazie e buona giornata. Grazie e buona giornata a tutti. E quindi, caro Marco, dobbiamo tenere altissima la guardia. Tenere altissima la guardia e poi, visto che qui siamo comunque a Radio Stato del Capo, siamo a Bologna, andiamo a cercare di capire anche che cosa è successo e sta succedendo a riguardo dell'agenda digitale nella nostra città. Vi ricordo comunque che, come sempre, i contatti della nostra radio con i quali possiamo entrare in contatto e sentire anche qual è la vostra sensazione, la vostra opinione riguardo dell'agenda digitale di cui abbiamo parlato finora con Lorenzo Benussi. SMS come sempre al 348-7649-289. Le email invece a diretta@cittadelcapo.it. E come sempre potete anche contattarci attraverso il nostro Twitter, @pensatech con il CH. Come sapete, in città, a Bologna, il percorso che ha riguardato l'agenda digitale è cominciato a gennaio del 2012, quindi praticamente un anno fa. È stato un processo volutamente partecipato. Dicevamo, un processo cominciato a gennaio del 2013, quello dell'agenda digitale a Bologna, un processo che ha visto la partecipazione sia online che fisicamente di diversi attori attraverso un processo partecipato molto complicato, molto interessante e articolato. E noi per parlare dell'agenda digitale a Bologna abbiamo un ospite al nostro telefono che è Matteo Lepore, l'assessore. Buongiorno Matteo Lepore. Buongiorno. Assessore con tante deleghe, ma anche quella proprio all'innovazione agenda digitale. Sì, io non le citavo tutte perché sennò avremmo finito la trasmissione citando le deleghe, quindi diciamo così. Allora, cominciamo a parlare dell'agenda digitale a Bologna. Intanto è stata approvata una legge a livello nazionale che riguarda proprio l'agenda digitale. Questo che effetti avrà sull'agenda digitale bolognese? Ma intanto i comuni hanno nuovi compiti da parte dello Stato riguardo le anagrafi, riguardo le carte di identità digitali e i documenti unici. Ci sono una serie di misure che dobbiamo intraprendere obbligatoriamente sulla trasparenza, sulla trasmissione degli atti con le firme elettroniche, quindi ci sono alcune cose che avranno un forte impatto nell'organizzazione dei comuni. Non è ancora chiaro anche quanto costerà ai comuni l'agenda digitale nazionale, quindi da un lato una grande innovazione, devo dire dal governo meno attenzione a capire poi dove scaricheranno i costi. Questo è sempre un punto che rimane diciamo poco specificato. Noi abbiamo parlato in apertura di trasmissione con Lorenzo Benusti, che è un economista dell'innovazione, è stato uno dei consulenti proprio della stesura del documento che ha portato alla legge dell'agenda digitale. Ci diceva che ora ovviamente bisognerà anche andare al passaggio operativo, cioè la legge è legge, però ora mancano tutti i decreti attuativi. A livello locale cosa significa questo? Significa innanzitutto che noi abbiamo la possibilità di interloquire più velocemente con il governo sulla semplificazione amministrativa. Il reale impatto però francamente vedremo nei prossimi mesi quale sarà, perché sono tanti anni che si sperimenta la carta d'identità elettronica, che si sperimentano delle soluzioni. Noi come comune siamo un comune pilota su diversi progetti, il problema è che poi questi progetti non si sono mai espansi a livello nazionale, nel senso che i vari governi non hanno mai deciso di proseguire seriamente sul fronte dell'innovazione digitale e della semplificazione. Noi stiamo lavorando ad un fascicolo elettronico del cittadino, ad esempio, dove distribuire servizi digitali con un'unica identità digitale, e questa sarà una grande innovazione che dovremo portare a casa entro il 2013. Lo faremo noi, poi il governo vedremo. Vedremo come andrà, vedremo anche come andranno questi dispositivi attuativi. Ma parlando invece di cose concrete, a Bologna per l'agenda digitale è stato anche indetto un bando a questo punto, quindi vogliamo un po' entrare in questo discorso, che cosa si tratta? Ad oggi online sul sito del Comune un bando che sarà online due mesi fino al 25 di febbraio, sono 100.000 euro per start-up, libere professionisti, associazioni, università e scuole. Dedicato a finanziare fino all'80%, a un massimo di 20.000 euro, progetti digitali nell'ambito della strategia che noi abbiamo scritto nell'agenda digitale del Comune di Bologna, frutto di quel percorso partecipato di cui si diceva prima. Per cui è una grande opportunità per chi ha delle idee, vuole sviluppare delle applicazioni, dei servizi. Da oggi si potrà scaricare l'avviso pubblico e si potranno iniziare a scrivere i progetti. E quindi tutti quanti quelli in ascolto che hanno delle idee, che vogliono provare a mettere in campo in ambito digitale, da oggi potete andare sul sito del Comune, nell'agenda digitale, trovare il bando per poter partecipare. E sembra interessante anche che in un momento di ristrettezza economica, di crisi, di difficoltà, ci siano anche dei soldi a disposizione per l'innovazione. Come la vedete da questo punto di vista in Comune? Noi la vediamo bene, anche perché è una nostra scelta, per cui diciamo che ci siamo come giunta fortemente battuti per non essere ridotti semplicemente a tagliare, perché devo dire che i provvedimenti della spending review nazionale hanno fortemente colpito gli enti locali. Abbiamo deciso invece di operare per dei risparmi che potessero essere utili a un reinvestimento anche sulla crescita e l'occupazione. 100.000 euro sono una cifra interessante in questo periodo. Sono dei risparmi di fine anno e delle risorse di alcuni progetti europei che abbiamo deciso di rimettere in circolo in una maniera virtuosa. E quindi in qualche modo tentativo anche di spostare verso l'ambito digitale l'economia anche della città, forse una spinta che in questo senso può anche essere un nuovo modello di sviluppo della città stessa? Assolutamente, noi abbiamo bisogno di creare posti di lavoro nel breve periodo, perché la crisi non finirà nel 2013 e c'è una disoccupazione giovanile molto alta. Abbiamo grandissime potenzialità sull'ambito dell'ICT e della creatività, ci sono molte start-up che nascono, che riescono anche a raccogliere capitale privato, molto più di quanto si immagina in questo momento a Bologna, e quindi c'è bisogno di politiche pubbliche che in questo questo momento aiutino chi, sostengano. Chi funziona. Ecco, volevo chiudere con Matteo Lepore con qualche esempio, perché nel corso di questo lungo percorso avete fatto molti incontri, anche molto partecipati con tante persone, sono stati delineati appunto una serie di proposte. Abbiamo veramente pochi secondi, ma giusto per capire, un esempio di tipo di proposta che è attuabile sul territorio. Possono essere progetti di interesse sociale o anche commerciale, può essere un'applicazione per uno smartphone per aiutare i cittadini a orientarsi meglio in città, a partire dai dati liberi del comune, può essere una piattaforma per il crowdfunding, ad esempio, per finanziare progetti di start-up. Benissimo, quindi date sfogo alla creatività e provate veramente a venire a capo con un progetto interessante. Il bando apre oggi. Noi ringraziamo Matteo Lepore, assessore del Comune di Bologna. Grazie, che ha seguito il percorso Agenda Digitale. Una buona giornata e buon lavoro. Arrivederci, auguri. E quindi Marco, diamo sfogo alla creatività, vediamo che un po' tutti, speriamo gli ascoltatori e le ascoltatrici di Pensatech partecipino numerosamente, in numerosa, come dire, in massa, con massa critica a questo. Con massa critica, assolutamente, con idee innovative per dimostrare che attraverso l'innovazione si può ancora guardare al futuro con, anche con una speranza, nonostante i tempi cupi nei quali siamo destinati in questo momento a vivere. Abbiamo messo il link alla pagina Iperbole 2020 sul nostro Pensatech, ricordo, la Pensatech è il nostro account Twitter, e direi che siamo giunti alla fine, Marco. Siamo giunti alla fine, io colgo l'occasione per salutarvi tutti e augurare anche buone feste a chi ci ascolta, visto che questa è l'ultima puntata pre-natalizia. E infatti, ultima puntata del 2012, noi ci risentiamo nel 2013, intanto buone feste, buon riposo a tutti quelli che riescono a farlo, e comunque non mangiate troppo e tenete invece ben svegli i neuroni, ci risentiamo molto presto. Buona settimana, buone settimane a tutti.